GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Il Milan abdica dal suo trono europeo. A San Siro i rossoneri, nel ritorno degli ottavi di Champions, cedono per 2-0 all'Arsenal. Gol negli ultimi 6 minuti di Fabregas e Adebayor. Carlo Ancelotti a Sky Sport. Io credo che loro nei 180 minuti sono riusciti a giocare come sanno e il Milan non ci è riuscito, sempre con continuità. Credo per gran merito va a loro, perché hanno pressato molto in tutte e due le partite, non ci hanno dato la possibilità di entrare in partita come volevamo. Anche se si è stati in partita fino a 5 minuti dalla fine, abbiamo preso gol proprio nel momento in cui sembrava che le cose si mettessero per il verso giusto. Vanno avanti anche Manchester United 1-0 al Lione, Barcellona 1-0 al Celtic Glasgow e i turchi del Fenerbahce, che hanno eliminato in trasferta il Siviglia ai rigori. E stasera tocca alla Roma, che a Madrid cerca la qualificazione contro il Real, battuto 2-1 all'andata all'Olimpico. Cosa servirà per qualificarsi? Lo spiega Capitan Totti. Una Roma cinica, una Roma forte, una Roma che quest'ultimo periodo ha ritrovato la forma migliore, ha ritrovato il gioco, ha ritrovato il collettivo, ha ritrovato i risultati. Penso che da questo si può uscire dal Bernabéu un risultato positivo. Il collettivo penso che sia la nostra arma in più. Intanto Rosella Sensi, amministratore delegato dei giallorossi, commenta così il deferimento di Totti per le parole dette sull'arbitraggio di Rosetti dopo Inter-Roma. Sicuramente alla Roma né a Francesco gli compete un tipo di punizione o comunque di multa, per cui andiamo a vedere e parliamone. Purtroppo l'inoria viene fraintesa e me ne dispiace molto. Questa tempestività non è stata proprio opportuna per quanto riguarda l'incontro con il Real Madrid, perché la Roma rappresenta anche l'Italia. Oggi in campo anche Chelsea, Olympiacos Pireo 0-0 all'andata in Grecia e Porto Schalke 0-4 all'andata 1-0 per i tedeschi. 5 giornate di squalifica, ammonizione con diffida e 15.000 euro di multa. Stangata del giudice sportivo per Antonio Cassano dopo gli insulti all'arbitro Pierpaoli, che lo aveva espulso nel finale di Sampdoria-Torino. Il direttore generale della Samp, Marotta. Sappiamo che si è trattato di un gesto censurabile, per cui non ci appelleremo e non faremo assolutamente ricorso. Avremmo fatto ricorso solo se ritenevamo sproporzionata la sanzione comminata. In casa Juventus, dopo il KO in campionato con la Fiorentina, è Gigi Buffon a dire la sua sulle difficoltà dei bianconeri. Sicuramente nel momento in cui secondo me arrivano dei risultati insperati, nel momento in cui stai facendo più di quello che pensi tu possa fare, è normale che ci possa essere una piccola flessione psicofisica, ecco, e questo può essere realmente accaduto. Per il basket, quarto turno di Eurolega stasera con la Montepaschi Siena, che va in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Domani l'Ottomatica Roma CSK a Mosca. E chiudiamo con la pallanuoto. Italia e Canada hanno pareggiato 7-7 nella terza giornata del torneo preolimpico maschile che si sta svolgendo a Oradea in Romania. Per il Settebello oggi sfida con il Messico. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con A Tempo di Sport. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.